Ragazzi e ragazze carissime, Ave Maria a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per una nuova puntata di Spazio Giovani. Chi vi parla come sempre è Don Leonardo Maria Pompei, che vi ricorda che stiamo ancora trattando il ciclo di catechesi sui 10 comandamenti. Siamo giunti al settimo comandamento. Vi ricordo che abbiamo dedicato un paio di puntate già a questo comandamento, il primo per introdurre un po' i principi generali della dottrina sociale della Chiesa, e 2 puntate fa, mentre la volta scorsa abbiamo cominciato a vedere i peccati più gravi contro il settimo comandamento, che sono due di quelli che gridano, ricorderete, vendetta al cospetto di Dio, vale a dire non defraudare del giusto salario gli operai e l'oppressione dei poveri. Ecco, oggi con l'aiuto del Signore andremo avanti trattando degli argomenti abbastanza delicati, che sono quelli un po' noti anche alla pubblica opinione come argomenti da codice penale. Ecco, diciamo che non ci saranno grandi difficoltà per molti a comprendere che le cose di cui parliamo oggi sono abbastanza gravi. E ovviamente ci sono, anche se abbiamo fatto tante volte, anche la volta scorsa ricorderete, dei doverosi e preziosi distinguo tra la legge morale e la legge civile, sono due ambiti che hanno delle competenze e degli oggetti propri che non coincidono, e tuttavia, ovviamente in alcuni casi si toccano e si sovrappongono e si intersecano. Quindi le cose di cui parleremo oggi, nella prima parte o forse in tutta la puntata, non so quanto tempo ci sarà preso, le ritrovate nel codice penale con gli articoli dedicati ai reati contro il patrimonio che io a suo tempo, come penso molti di voi sappiano, dovetti anche studiare sotto l'altro punto di vista, cioè quello propriamente criminale del codice penale italiano. Allora, su questi punti si potrà andare abbastanza velocemente perché la loro peccaminosità intrinseca è abbastanza notoria, quindi non serve fare chissà quali grandi spiegazioni per farla percepire. Magari per qualcuno forse potrebbe essere una cosa positiva ascoltare alcune cose, perché magari ascolta qualcosa nei telegiornali, dato che di queste cose si parla abbastanza spesso e non capisce bene a che cosa si faccia riferimento, quindi potrebbe essere utile per la formazione personale. Comunque, quindi andiamo abbastanza velocemente per quanto riguarda questa materia. Allora, quali sono i principali peccati reati contro il settimo comandamento? Abbiamo il furto, l'appropriazione indebita, la truffa e le altre modalità di frode, ecco, forse qui sarà bene spendere qualche parola, la rapina, l'estorsione, il danneggiamento, la ricettazione e il riciclaggio. Questi sono reati contro il patrimonio, diciamo così, commessi contro il patrimonio personale. Quindi vedremo che ci sono una serie di reati, per esempio la concussione o il peculato, che sono più gravi perché sono commessi da pubblici ufficiali, quindi può essere un politico, può essere un uomo delle forze dell'ordine, può essere un magistrato, abusando del ruolo di supremazia e di autorità che deriva dalla loro professione. Quindi questi ultimi reati chiaramente sono molto più gravi e sono anche particolarmente odiosi, no? Di essi si è ampiamente parlato in tempi non molto lontani, ecco, nelle cronache, nei fatti di cronaca non proprio edificanti, e non soltanto dell'Italia, abbastanza recenti. Quindi spendiamo qualche parola e commento di queste, ma spiegazione di queste fattispecie, ecco, giusto per creare qualche piccolo distinguo, no? Allora, ovviamente il furto e l'appropriazione indebita, da un punto di vista oggettivo, quindi sono peccati mortali, però soltanto quando la materia è di notevole valore. Diciamo che per la nostra formazione, la mia esperienza anche di parroco, di confessore mi insegna, no? Che a volte se una persona o un bambino ruba una caramella, si avverte che ha fatto chissà che o chissà che cosa. Certamente rubare una caramella non si deve, e rubare una caramella è peccato, quindi non è una cosa che si deve fare. Io ricordo quando lessi in un periodo della mia vita le omelie del santo curato d'Ars, lui su questo aveva una coscienza così delicata che aveva fatto togliere dalla casa sua gli alberi da frutto per evitare che i passanti, passando, rubassero gli alberi, prendessero qualche frutto dalle sue alberi da frutta, insomma, no? Quindi nessuno sta dicendo, però rubare una caramella non è come rubare 10.000 euro, non è la stessa cosa. Ecco, pensiamo all'appropriazione indebita. Chiedo a un mio amico, mi presti la penna a scuola e non gliela ridò, è diverso che se qualcuno mi ha prestato 5-10.000 euro e io faccio il finto tonto e non glieli ridò, oppure lo faccio stancare a forza di richiedermeli, me lo chiede una volta, me lo chiede due volte, me lo chiede tre volte, a un certo punto lo porto per esasperazione, non ho restituito quella somma e penso di averla fatta franca davanti agli uomini. Se l'hai prestata a un figlio di Dio che non ti denuncia, ma davanti a Dio tu andrai a rispondere come ladro esatti 5.000 euro, perché non è cosa sostanzialmente diversa sottrarre una cosa ad altri, quindi prenderla senza il permesso, che trattenerla senza che nessuno ti abbia autorizzato, che è il caso dell'appropriazione indebita. Quindi spero che, quindi sono sempre peccati, d'accordo, perché vi ricordo, penso che ne abbiamo parlato in qualche puntata, quando siamo dinanzi a precetti negativi del decalogo, questo dobbiamo averlo chiaro, perché lo vedremo anche sull'ottavo, no? Che non si può dire neanche una bugia per scusa, è peccato, non si può. Quando si sta dinanzi a un precetto negativo, tassativo, quindi non rubare, vuol dire questa è una cosa che non si può fare mai per nessun motivo. Quindi anche Robin Hood, che rubava i ricchi per dare ai poveri, per quanto lo faccia con nobili motivazioni, quella nobile motivazione non toglie l'intrinseca malizia del gesto del rubare. Ecco, e quindi non si può fare mai. Tuttavia, vi ricordate, abbiamo parlato anche di questo, per avere un peccato mortale ci vuole la piena avvertenza e il deliberato consenso, ma ci vuole anche la materia grave. Ecco, la gravità della materia, abbiamo ricordato il sesto comandamento, in re venerea non datur parvitas materie, quindi nel sesto comandamento la materia è sempre grave, quindi anche una piccola, un'apparentemente piccola trasgressione, adesso non ricicliamo questi scabrosi argomenti che ci hanno trattenuto fin troppo a lungo, è sempre peccato mortale. Invece rubare una caramella è peccato, ma non è peccato mortale. Quindi questo perché possiamo essere ben formati. Ora, per ciò che riguarda invece la frode, ecco, lasciamo perdere le truffe di cui oggi, specialmente nel mondo del web, c'è un dilagare impressionante. È una cosa odiosa, molto brutta, no? La truffa è praticamente il vendere il fumo, quindi rubare di fatto dei soldi, non perché sono stati sottratti, non perché sono stati trattenuti, ma perché si è venduto il fumo. Ecco, questo su internet specialmente non ne parliamo, insomma. Ecco. Oppure quando vengono date in giro carte di credito false, soldi falsi per pagare una cosa, eccetera, no? Ecco, però c'è una cosa che può essere rilevante, per questo è un brutto vizio degli italiani, che è una cosa grave, ed è la frode, specialmente in campo assicurativo. Ecco, io dovete sapere che prima di fare il sacerdote ho lavorato qualche tempo in uno studio legale, perché non pensavo di fare il sacerdote, sono stata una vocazione, come dire, adulta, tardiva. E nell'ambiente legale, per chi non lo sapesse, sono chiamati in tono sommamente dispregiativo, ecco, gli avvocati che lavorano molto in questo ramo, appunto col termine dispregiativo di parafangari, ecco, che sono quelli che si arricchiscono, come dire, spillando soldi non sempre onesti alle assicurazioni. Faccio subito un esempio per far capire. Faccio un incidente con la macchina. Io magari c'avevo la macchina dietro già piena di bozzi, d'accordo? Uno mi tampona e io faccio risultare dal tamponamento non mi è venuto soltanto il danno del tamponamento, ma anche tutti quanti gli altri bozzi che c'erano. Così il risarcimento, anziché essere, dico un numero, di 500 euro, diventa di 1000. Quegli altri 500 euro sono rubati, sono. Ed è proprio un furto in grande stile. Ce ne sono di altre peggiori, a volte purtroppo, che avvengono anche con connivenze di altri operatori professionali, diciamo così, tipi medici che attestano false certificazioni, no? Cioè io faccio un incidente, tranquillissimo con la macchina, non mi faccio nulla, dopodiché arriva certificato medico, eccetera, eccetera, riscontro è fantomatici colpi di frusta, chiaramente da 300 euro che sarebbe un abbozzamento a uno sportello, si passa a 3.000 euro se c'è un danno fisico da risarcire, no? Ma qui, se tu non ti sei fatto niente, tu hai rubato 2.700 euro, non vale dire, adesso non prendete la lettera questa, ma le assicurazioni ci rubano un sacco di soldi, che ci danno un sacco di premi esorbitanti e quindi glieli riprendo. Non si può reagire in questo modo, non si può, non è possibile, non è che se uno mi ruba io posso rirubargli, ammesso e non concesso tra l'altro che mi rubi. Se ho avuto un danno posso e devo pretendere, cioè posso pretendere, devo chiedere che mi sia risarcito il danno nella misura giusta, cioè quello che c'è effettivamente stato. D'accordo, quindi non si fanno queste cose, no? E pensate anche a chi è, cioè, dopo stiamo sempre tutti quanti a lamentarci, no? Sui politici che rubano, d'accordo? E che malversano o mal amministrano i pubblici denari, cosa che forse spero di no, ma supponiamo, facciamo finta che in qualche caso sia vera. Però state attenti, ragazzi, no? A me è successo tante volte quando ero giovane, no? Allora, quanta gente lavora, non lo so, alla ASL, all'INPS o in qualche ufficio pubblico? E che succede? Dopo ci sta l'amico di turno che c'ha da fotocopiare un libro universitario al figlio e lo dà all'amico che lavora all'ASL, perché lì c'è la fotocopia, e dice facciamo le fotocopie gratis. E questo non si può fare, questo qui. Così come non si può, cioè se io c'ho, sono un dipendente pubblico e dentro il mio ufficio ci stanno i telefoni, certamente posso ricevere le chiamate, posso usare i telefoni, anzi devo usare i telefoni per tutte le chiamate, come dire, professionali. Se devo contattare un'azienda a nome del posto dove lavoro, cose di questo genere, è chiaro che uso il telefono pubblico. Ma io non posso usare il telefono né dell'azienda né tantomeno del luogo pubblico per fare un intercontinentale per salutare mio figlio che vive in Canada. Perché l'intercontinentale di mezz'ora, no, io adesso non lo so quanto costa le tariffe attuali, costa un sacco di soldi. Certamente anche qui non si tratta dell'uso del telefono, no? Perché se io so che la mia azienda ha per esempio i contratti che fanno adesso tanti gestori, chiamate nazionali illimitate, gratis, allora certo che lo posso fare, anziché chiamarlo col cellulare mio che lo pago, lo chiamo col telefono dell'azienda che ha le chiamate gratis però. Ma se il telefono dell'azienda non ha le chiamate gratis, io questo non lo posso fare. D'accordo? Questo insomma per dire, ci sono tante piccole forme di furtarello. Pensate, cioè io ricordo quando ero ragazzino, ogni tanto andavamo a Roma, c'erano alcuni cosiddetti ragazzacci romani di Roma, tanto si dice il peccato ma non il peccatore, anonimi, sapete che facevano? C'avevano un biglietto della metropolitana, a quei tempi erano quelli gialli, mi ricordo ancora, e poi sapete che facevano? Mettevano sempre lo stesso in ogni ingresso, cioè quei biglietti li buttavano quando a forza di vidimature e timbrature erano da buttare, perché si erano consumati. Allora quelli sono tutti quanti soldi rubati, sono soldi rubati all'ATAC di Roma, che ti sta comunque dando un servizio. Un servizio ha dei costi e tu quel servizio lo devi pagare. Non è che per il fatto che non ci sono i controlli tu hai fatto il furbo. Ecco, queste sono cose diverse, state attenti, no ragazzi? Cioè, adesso vi faccio un esempio. Se io sto su una strada come dire, dove il limite è 50. Supponiamo una strada statale in un percorso, diciamo, un pochino con qualche curva, che il limite è 50. Questa è una legge amministrativa, questa qui. Cioè, se io supero il limite di velocità, se mi fanno, che è una cosa non corretta da un punto di vista civico, premesso questo, e se mi fanno la fotografia, magari vado a 70, quindi ho superato più della soglia di tolleranza, che mi sembra siano 10 km, il limite massimo. Se mi fanno una fotografia, mi arriverà una multa salata e qualche punto sulla patente. Ecco, però se quel comportamento non ha causato pregiudizi ad alcuno e né era un comportamento oggettivamente imprudente, non so, magari era proprio una strada terribile con le curve a gomito, che superare veramente i 50 era mettere a repentaglio la vita mia o del prossimo. Io non mi devo confessare per questa cosa. Certo, se mi arriva la multa la devo pagare, ma non mi devo confessare. Perché? Perché le leggi del codice della strada sono leggi, questo anche da un punto di vista giuridico, non si va in galera per una cosa di questo genere, no? Quindi si va in contravvenzioni che si chiamano di tipo amministrativo, che sono pene pecuniarie. Lo Stato ti chiede il rispetto di alcune norme che non toccano, diciamo, l'integrità morale o l'onestà della persona, ma sono dai legislatori ritenute opportune per un certo ordine nella pubblica convivenza o nella fruizione di certi servizi, in questo caso le pubbliche strade, eccetera, eccetera. D'accordo? Però se io non pago il biglietto sul treno o sul tram, e devo confessarmi, lo devo dire, andatelo a dire queste cose qui, stare attenti perché. Adesso lo vedremo subito. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si legge, questo lo potete trovare, adesso vedo un attimo se riesco a trovare la citazione, non riesco a trovare, però dovete andare a vedere nel Catechismo della Chiesa Cattolica il settimo comandamento, lo trovate proprio scritto. Allora, quando un confessore sente un peccato contro il settimo comandamento, è uno dei rari casi in cui non deve starsi a lammiccare il cervello e chiedersi, mo che penitenza gli facciamo fare a questa o a questo? Perché la penitenza è obbligata. Se tu confessi un peccato contro il settimo comandamento, la penitenza è la restituzione fino all'ultimo centesimo di quello che tu hai illegittimamente acquisito. Mi dirai, come faccio a restituire i soldi all'ATAC se sono andato 10 volte gratis in metropolitana non pagando il biglietto? Non si restituiscono i soldi in quel caso all'ATAC, ma quanto costa un biglietto dell'ATAC? 1 euro? Ecco, 1 euro per 10 fa 10 euro. Prendosi 10 euro, dopodiché il primo povero che incontro per strada, oppure la prima bussoletta della chiesa, di una chiesa sperduta dove entro, prendo quei soldi e li metto lì dentro. Perché non dobbiamo presentarci davanti al Signore, i soldi che noi abbiamo, e abbiamo visto nelle altre puntate di non fare, di non avere atteggiamenti stupidi, pauperistici, che se uno ha qualche soldo, chi lo sa quale grosso delitto abbia fatto soltanto per il fatto di averli. Questo non è proprio della dottrina cattolica, d'accordo? Anche se alcuni grandi santi, tra cui San Francesco, per le loro nobili finalità e motivazioni, a cui abbiamo a suo tempo accennato, sono stati su questo molto rigidi, ma questa non è una legge valida per tutti, altrimenti andremo tutti all'inferno. Chiunque, chiunque, San Francesco non voleva neanche che fossero toccati i soldi, allora chiunque tocca i soldi andrebbe all'inferno. Capite? Sarebbe assurdo una cosa di questo genere, no? Però i soldi che c'è devono essere frutto di attività oneste e non rubati né perché li hai presi, né perché hai trattenuto ciò che non dovevi, né perché hai truffato e né perché non hai pagato dei servizi o dei debiti. La volta cosa abbiamo detto la volta scorsa? Per morire e per pagare c'è sempre tempo. No. Poi mi sono arrivate un pochino di domande in giro, Facebook a destra e a sinistra, i classici casi, come dire, da scuola, da casistica, no? Dice, però se io mi trovo in difficoltà e quindi piuttosto che pagare subito tutto lo stipendio, glielo pago un mese dopo anziché licenziarlo, allora le singole eccezioni motivate da cose gravissime, d'accordo? Se ne può discutere, quindi se ne discute, se uno non ha chiaro in coscienza cosa fare, ne discute col confessore, col padre spirituale, gli spiega la situazione e eventualmente il confessore gli dirà: va bene, in questa circostanza, stando così le cose, regolati in questo modo, d'accordo? Perché la legge, anche da un punto di vista umano, conosce sempre delle eccezioni, non esiste nessuna legge così rigida, ecco, da non conoscere dentro alcune circostanze ben determinate, ecco, la possibilità di derogare. Cioè, un istituto, non c'è tempo adesso di parlare in questa sede, forse magari al termine dei 10 comandamenti, istituto da prendere con estrema delicatezza e da spiegare con le molle, che si chiama l'epicheia, che è quella scappatoia per cui, tema molto caldo nei giorni scorsi, in presenza di alcune circostanze straordinarie, pur trovandosi dinanzi ad una norma che sarebbe ordinariamente vincolante, si può procedere diversamente, con prudente giudizio davanti a Dio della persona. Questa è una cosa molto bella, una cosa molto pericolosa, perché il giudizio deve essere rigorosissimo. Come le questioni uscite la settimana scorsa, penso che le abbiate seguite, sul discorso della coscienza. Io ci ho fatto un'omelia domenica scorsa, è l'ultimo, è l'omelia delle 18:30 di domenica. Allora, le cose che sono state dette in giro da parte delle autorità ecclesiastiche sono ovviamente state dette in maniera corretta, ma da parte della vulgata laica sono state travisate. Ecco perché il problema della coscienza è un problema grosso. San Tommaso d'Aquino ci dedica una questione intera a spiegare cosa vuol dire seguire la propria coscienza, cosa vuol dire il fatto che ogni uomo è tenuto a seguire la propria coscienza, in che senso è da intendere questa cosa, a quali condizioni e in che senso una persona che segue la propria coscienza davanti a Dio è giustificata. Non è mica un discorso così semplice, perché il travisamento è come dire, è alle porte. Se tu dici grossolanamente, se uno segue la propria coscienza, se uno segue la propria coscienza, fa la volontà di Dio, scusate, se io in coscienza mi sento che fare tutti i peccati possibili contro il sesto comandamento non c'è niente di male, io penso questo, davanti a Dio sono giustificato. Quindi il principio, che ripeto, è valido, ma va spiegato bene. E c'è tutta, ci stanno 2 mesi quando uno fa l'esame, quando uno fa il corso di morale generale, su questa questione ci si stanno per almeno 3-4 lezioni, mica per una, con tutta quanta la tipologia, con tutte le casistiche, quando cosa deve fare, cioè se una coscienza è grossolanamente ignorante o è ignorante per colpa propria, sto principio non vale più. Se una coscienza resiste anche alla conoscenza oggettiva della verità che gli è proposto davanti, questo principio non vale più. Cioè, ci sono tutta quanta una gamma di situazioni che vanno comprese. Ecco, quindi, detto, la buona formazione, no? Io ho parlato di questo argomento perché San Paolo, nella seconda lettura domenica scorsa, raccontava i suoi gravissimi peccati. Io sono stato per l'innanzi un persecutore, un bestemmiatore, un violento. Dice: poi però il Signore mi ha usato misericordia perché agivo per ignoranza. Quindi lui non sapeva e non era in grado di sapere che i suoi principi, in cui credeva fermamente, erano sbagliati. Questo non vuol dire che ha fatto bene, ha commesso dei peccati oggettivamente gravi. Ecco. Ma gli occhi di Dio sono stati diminuiti, infatti ha avuto la grazia della conversione, perché aveva almeno la circostanza attenuante nel suo fanatismo religioso farisaico di agire, come dire, in buona fede. Quindi, come questi altri discorsi vanno molto bene, compresi. Ecco. Quindi, da un punto di vista morale, tu rubi, e rubi in questi casi che ti ho detto, devi restituire fino all'ultimo centesimo. Devi restituire fino all'ultimo centesimo. Non importa se ti acchiappano o non ti acchiappano. Può darsi che non ti acchiapperanno mai. Capite? Ma ti acchiappa il Padre Eterno, ti acchiappa su questo. Io non mi ricordo, prendete questa cosa come una notizia lasciata al vostro buon senso. Lessi un po' di tempo fa gli scritti di Maria Simma. Maria Simma è un personaggio discusso, una mistica austriaca, morta ne pare nel 2003, nel 2004, con doni straordinari. Era un po' la Natuzza Evora dell'Austria. Io mi ricordo che rimasi impressionato quando nel libretto suo Fateci uscire di qui si arrivò nel capitolo che parlava dei peccati contro il settimo comandamento, e lei raccontava che il Padre Eterno, quando andiamo di là, ti chiede conto pure di un centesimo, se tu quel centesimo non l'hai. Terribile. Gloria Polo, analogamente, questo per l'uso santo dei beni creati, scriveva nel suo libretto che il Padre Eterno ti chiede conto anche di un chicco di riso sprecato. Attenti a quando stare a tavola, perché noi facciamo certe cose con estrema leggerezza. I nostri nonni e le nostre nonne, quando cadeva una mollica di pane per terra, si inginocchiavano, la prendevano in mano, la baciavano e poi se la mangiavano. E noi buttiamo la roba al secchio, cosa che non si deve fare. Dici, mamma, si è sprecata, mi sei andata cattiva. Care signorine o signorini, perché oggi vanno tutti a fare la spesa, bisogna fare le spese intelligenti. Bisogna imparare a usare il frigorifero e il congelatore. O a rifare le cose, se una cosa è avanzata, la rielaboro, la rifaccio. Se una verdura mi si sta rovinando, faccio un bel minestrone e ci sbutto tutto dentro. E uno si industria. Oppure se qualcosa proprio è irrimediabile, c'ho un animale, una gallina, un cane, ma non buttate le cose al secchio, Gloria Polo l'anno scorso l'ho conosciuta, Gloria Polo per quanto mi riguarda è attendibile, datela a leggere il libretto suo, quello che il Padre Eterno gli ha detto, anche per un chicco di riso, sprecato, quindi non si fa, ecco. E non è che non si fa per tirchieria, cioè non perché devo andare, perché devo risparmiare anche un centesimo, non si fa, perché la divina provvidenza, il cibo materiale è dono di Dio ed è divina provvidenza. Buttarlo è dare uno schiaffo alla divina provvidenza ed anche uno schiaffo a chi poverino, per colpa mia, non per colpa del Padre Eterno, muore di fame. Adesso poi durante il settimo comandamento affronteremo anche questo argomento, Così quando qualcuno vi dice che Dio è cattivo perché muore la gente di fame, gli andate subito a dare una bella rispostina circa la verità, perché la gente muore di fame non perché Dio è cattivo. La gente muore di fame perché noi siamo egoisti e spreconi e dilapidatori, e questa è colpa grave, e sperperatori dei beni della terra. I potenti, i grandi, i magnati, eccetera, eccetera, facciano pure quello là che meglio credono, facciano, ma si troveranno anche loro un giorno davanti al nostro Signore, e trovandosi davanti al nostro Signore dovranno rendere gravissimo conto di alcune questioni. Quindi capite, noi non siamo indulgenti a nessun tipo di pauperismo, che non ha ragione di esistere, ma non siamo neanche ovviamente minimamente complici di quel modo disordinato, sbagliato e contrario alla legge di Dio di mal amministrare, sprecare o ostentare malamente ricchezze e fondi fatti spremendo la povera gente, perché il Padre Eterno di questo chiederà conto, e conto rigoroso. Ecco, facciamo una piccola pausa, sono le 17, per recitare la nostra consueta Ave Maria e poi riprendiamo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora, oltre a questi primi peccati, andiamo avanti rapidamente, e abbiamo un altro bruttissimo peccato, anche questo ahimè molto molto diffuso, molto più diffuso di quanto si pensi, che è l'usura, peccato odioso e assai grave, condannato con parole molto forti. Nell'Antico e nel Nuovo Testamento l'uomo giusto, dice un salmo, se presta denaro non fa usura. Ecco, noi sappiamo, anche su questo è meglio sempre dire qualcosa, noi sappiamo che nell'attuale economia, e questo è anche tipico, diciamo, di certa tradizione giuridica, effettivamente, cioè, il servizio del fornire una certa liquidità, cioè tu hai bisogno di liquidità, non hai liquidità, e io ti do una liquidità togliendola a me, come dire, è tranquillamente paragonabile a un servizio che ha un costo, d'accordo? Per cui un interesse normale entro il 10%, ovviamente può essere tranquillamente chiesto senza che i direttori di banca o gli amministratori delegati debbano andarsi a confessare o senza una persona che magari lavora in una onesta agenzia finanziaria debba temere che per il lavoro che fa vada dritto all'inferno come usuraio. Quindi queste non sono ovviamente fattispecie di questo genere. L'usura è una cosa ben più grave quando cominciano ad essere imposti. E questo anche secondo il codice penale, interessi che vanno oltre il tasso legale, oppure perché proprio per la delicatezza della materia la legge non consente di, come dire, di svolgere questa attività ad un privato singolo, cioè davanti allo Stato. Ecco, quindi un privato singolo non potrebbe fare una cosa di questo genere lecitamente davanti alla legge. Davanti alla legge di Dio, anche qui, non lo so, sinceramente. Perché il problema è che lo Stato deve tutelarsi, perché su questa materia voi capite benissimo quanto poi diventa pericoloso, no? Se tutti potessero fare una cosa di questo genere diventerebbe complicato, ci sono tanta una serie di garanzie, di leggi che adesso non è il caso che stanno a parlare, quindi possono farlo le banche o le agenzie finanziarie, lecitamente, ecco. In ogni caso sempre dentro i margini. Dei tassi di interesse legali che non devono mai essere esagerati oggettivamente o comunque sproporzionati rispetto alla prestazione offerta. Ecco. Un'altra cosa, parlando ai ragazzi, sono sicuro che mi ascoltano tutti quanti bravi ragazzi, però tocca stare un pochino attenti perché a volte anche ingenuamente si fanno alcune cose. C'è un altro brutto peccato contro il patrimonio, che è anche un reato quasi mai perseguito, che è il danneggiamento. Nei luoghi pubblici, oppure peggio ancora nei luoghi di culto. Fare tutte quante le scrittacce sui muri, oppure prendere gli uniposca, imbrattare panchine, cose dei pubblici giardini, oppure fare murales, oppure andare, non lo so, io ho visto, siamo stati recentemente a Cascia, a Santa Rita, nel luogo dove c'è il crocifisso che ha messo la spina a Santa Rita, le scritte sul muro, non lo so, Francesco e Loredana sono venuti oggi, si amano tanto a offrirsi a Santa Rita con la data. Scrivono, cioè, non si fanno queste cose, è un danno, cioè, noi non dobbiamo essere schiavi delle cose, d'accordo? Quindi dobbiamo tranquillamente usare le cose. Ci sono quei folli, cioè, atteggiamenti che non hanno niente a che fare con il cristianesimo, cioè, mettono il lenzuolo sopra la macchina o sopra la moto, e quindi hanno, come dire, una cura assolutamente esagerata delle cose fino a farsi schiavi, no? Oppure non ti fanno entrare dentro casa se non c'è le scarpe pulite, lustrate, perché dopo se sporca per terra si consuma il pavimento. Queste sono cose ridicole, sono, no? Però il danneggiamento gratuito, cioè tu c'hai un oggetto che a sfregio, così o perché deve essere lo schiribizzo per la testa, lo danneggi. Se tu su un muro ci scrivi sopra, scusa, dopo se qualcuno lo vuole ripristinare devi pagare il pittore, hai fatto un danno, non lo pagherai tu, ma chi lo paga quello? Allora noi dobbiamo fare attenzione perché capite che dentro questo comandamento ci sono tutta quanta una serie di questioni o di situazioni. Meno io non ho mai sentito in confessione qualcuno che viene a dire «Dorona, mi devo confessare perché ho scritto sui muri». Cioè, saranno tra tutte le persone che hanno confessato qualcuno che ha scritto sui muri, no? Confessare tante in 9 anni che sono sacerdote, ma non l'ha detto nessuno. Ho scritto sui muri. Sui muri pubblici. Non si fa. Cioè, capite? Noi stiamo sempre a lamentarci. Io la volta scorsa ho detto anche qualcosa, cioè nel senso che è assolutamente intollerabile, da un punto di vista oggettivo, che si arrivi a livelli di pressione fiscale come quelli che stiamo in Italia. Ma da 2 mesi fa uscì a Sky TG24 che alcune imprese del nord-est italiane stanno in pressione fiscale al 70%. Allora, dietro questo ci sono tante malversazioni da parte dei politici, sicuro, tanti sprechi, sicuro. E tutte queste cose ne risponderanno davanti al Padre Eterno. Però dobbiamo pure fare attenzione, no? Cioè, se tu vai a scuola e devasti un banco, sfasci una sedia, così, perché ti va di fare scritte, perché ti va di prendere, non lo so, un punteruolo e di incidere un banco, Poi quel banco dopo, l'anno dopo, chi li paga quei soldi? Li paghi tu, li paghi? Li paghiamo noi, li paghiamo. Da qualche parte li devono prendere, dove li prendono quei soldi? Quindi, cioè, sono tutte quante cose che non si devono fare, le fanno gli altri e non fa niente. Noi, ognuno di noi risponde davanti al Padre Eterno della coscienza propria e di quello che lui fa. Ecco, queste cose non si fanno, oltre che per ragioni civiche, che hanno comunque una sua propria rilevanza anche per il mondo laico, non si fanno anche per questioni morali, non si fa così. Un bene oggettivo, anche un bene materiale, è un dono di Dio, che, di cui non, ripeto, non bisogna farcisene schiavi, perché i beni vanno adoperati e vanno usati, senza che uno sta a pensare che se usa troppo la macchina poi se si consuma, e se si è consumata, pace, finita, ha fatto il suo lavoro, d'accordo? Però non vanno neanche, come dire, maltrattati o adoperati o sfregiati, così, no? Ecco, quindi scrivere sui muri, rompere le suppellettili pubbliche, i lampioni. Io mi ricordo, quando ero piccolo, c'ho il mio caro cagnolino, lo portavo a spasso in giro, facevano in tempo a mettere un lampione nuovo al parco pubblico, la sera dopo erano già tutti quanti devastati. Perché si divertivano, i cosiddetti ragazzacci, a prendere i sassi e erano alti i lampioni a vedere chi prendeva la cupola del lampione per romperlo. Non mi sembra un gioco proprio molto edificante questo qui, no? Questi sono tutti quanti i peccati da confessare, oltre che, seppur piccoli, in proporzione ad altri, reati, puniti dalla società civile. Ecco, passiamo adesso ad alcuni, ve l'accennavo prima, reati. Che sono commessi da chi lavora nella pubblica amministrazione. Allora, sono fondamentalmente tre le specie principali, che sono la concussione, questo, quando ero giovane, ai tempi di Mani Pulite non si parlava di altro, quando facevo l'università, la corruzione e il peculato, riemerso agli onori della pubblica cronaca nera in tempi non troppo lontani da questa trasmissione. Allora, cos'è la concussione? Allora, tra i reati brutti, ecco, violenti contro il settimo comandamento, non ho parlato per esempio della rapina perché tutti sanno che cos'è. Un altro è l'estorsione, cioè l'estorsione che cos'è? L'estorsione con la violenza ti costringo a darmi alcune cose, no? È simile alla rapina. Che cos'è la concussione? Allora, io, pubblico ufficiale, per fornire una prestazione a cui sarei tenuto, chiedo un'elargizione di soldi. Questo purtroppo è costume diffuso. Io adesso non posso scendere in particolari, ma io a suo tempo fui testimone di tante cosa è vissuta a livello di prassi, cioè tu vai in un ufficio, ti serve una cosa, d'accordo, che è tuo diritto averla, nessuno ti dà il resto. Se fai capire, oppure se procedi elegantemente o grossolanamente a, come dire, dare un piccolo obolo per questa prestazione che ti sarebbe dovuta, hai immediatamente quello che avresti diritto ad avere. Questa è concussione, questa qui, perché è gravissima, perché tu sei già pagato per un lavoro che devi fare e sfrutti la tua posizione e il mio bisogno per chiedere altri soldi, per darmi ciò che a me mi spetta e che è mio. Diversa da questa fattispecie, è la corruzione. Nella corruzione non si è vittime di un comportamento vessatorio altrui. Ragazzi, mi sembra che sto facendo l'esame di diritto penale, stiamo tornando indietro nel tempo. Comunque, non è che c'è qualcuno che abusando della sua posizione mi fa un'ingiusta o mi fa capire che vuole un'ingiusta somma di denaro che io poi cedo e subendo questa ingiustizia gli do. Ma ci mettiamo d'accordo. Quindi c'è un accordo scellerato tra pubblico ufficiale e privato, sempre teso ad ottenere qualcosa o che sarebbe dovuto oppure che sarebbe proibito. Cioè, non si potrebbe fare questa determinata cosa. Io conosco il pubblico ufficiale X, gli dico, sta cosa non si potrebbe fare, però a me mi serve sta carta. 100, 300 euro, fammi sta carta. Quella è la corruzione. In quel caso sono colpevoli davanti a Dio tutte e due, perché mentre nel primo caso è colpevole soltanto chi ha fatto la vessazione, quindi il concussore, nel caso di corruzione sono responsabili tutte e due, sia quello che ha fatto l'offerta, sia quello che l'ha accettata. E anche davanti alla legge è un cosiddetto reato plurisoggettivo, cioè se viene denunciata una corruzione vanno in galera il corrotto e il corruttore, tutte e due. Infine il peculato non è altro, per farvi capire in due parole, questa è una parolaccia, che è l'appropriazione indebita fatta da un pubblico ufficiale, oppure il furto fatto da un pubblico ufficiale. E allora, io sono un politico, adesso ci sono casi famosi, e faccio l'amministratore del bilancio di un partito, gestisco un certo numero di soldi e un bel po' di soldi me li metto in tasca e poi faccio figurare che sono andati per certe cose, cioè quindi trattengo per me ingiustamente denaro pubblico altrui. Questo è il peculato. Sono tutti quanti reati molto gravi, però ragazzi e ragazze, non cadiamo nella censura di Gesù nel Vangelo: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Perché guardate, per certi aspetti, cioè, sono anche, cioè, il politico corrotto o ladro va a finire su tutti i giornali, tutti lo sanno, è condannato a morte, è uscito fuori dal giro, nessuno più gli riterrà i consensi, pubblica gogna, eccetera. E magari ha pure rubato tanto. Però attenzione, che se tu fai il furbetto e usi il telefono nel luogo pubblico e fai 3.000 fotocopie e non paghi il biglietto del treno, o tutte queste cose qui, non sei certamente a quei livelli, però non sei senza peccato, perché comunque la specie è la stessa. Quindi questo, per questo Gesù dice nel Vangelo, non soltanto non giudicate, non sarete giudicati, ma anche non condannate. Quando Gesù disse chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra, fate attenzione che l'adultera non era Santa Chiara, l'adultera non era innocente, l'adultera era adultera, quella era stata sorpresa in adulterio flagrante, quindi quella c'aveva il marito, era andata con un altro, l'hanno trovata, entra a letto, perdonatemi, quindi l'aveva fatto. Gesù non l'ha giustificata, d'accordo? Gesù gli ha dato un'altra possibilità, ma non l'ha detto fatto bene. Però Gesù si è indignato dinanzi a questa grande voglia di ammazzarla subito con le pietre in mano, e dice, ma che, oh, noi ci riteniamo tutti quanti santi? Cioè anche un grande, cioè, allora, cristianamente parlando, ragazzi, qui siamo su una radio di un'emittente cattolica, tra l'altro una emittente mariana, io vi chiedo, come, quando la Madonna guarda un politico corrotto, che cosa pensa secondo voi? La Madonna che guarda un politico corrotto pensa, povero figlio mio, schiavo di Satana, che si è messo in un mare di guai, che ha aperto dei grandi conti con la divina giustizia, che pagherà fino all'ultimo centesimo, perché li pagherà. Però preghiamo per lui, perché almeno possa convertirsi, riconoscere il male che ha fatto, fare pace con il Padre Eterno, restituire, come fece il grande Zaccheo nel Vangelo, e rimettersi in pace. Capite? Non scagliarsi in maniera violenta, Io, e non mi vergogno di dirlo, perché nella vita dobbiamo almeno provare a fare finta, secondo me, di essere umili, provare a fare finta di essere umili. Ecco, io non lo sono, purtroppo. Però se tu mi dicessi, ma che, allora se tu andassi in altissime sfere e ci avessi la possibilità del soldo facilissimo, pure non troppo pulito, tu saresti così integerrimo? La mia risposta sarebbe, spero con l'aiuto di Dio, di sì, ma io non mi sento esente dalle tentazioni. San Filippo Neri pregava il Padre Eterno con queste parole, Signore, Tienimi la mano sulla testa perché Filippo si fa turco. San Francesco d'Assisi, che oggi va tanto di moda, stava continuamente a dire che era il più grande peccatore della terra. E quando una volta Frate Leone gli disse, dice, ma scusi un attimo padre, ma come fai tu a dire una cosa del genere? Tu più grande peccatore della terra, ma non lo vedi in giro che ci sta? Ci stanno gli stupratori, ci stanno gli assassini, ci stanno i ladri, gli avari, gli usurai, i pedofili, che adesso non lo so chi altro ci sta. Ma io so tanti anni che vivo con te, non ti ho mai visto fare queste cose. E neanche mi sembra che prima della conversione, pur essendo un giovanotto benestante e gaudente, fossi arrivato a questi estremi. Sapete che gli ha risposto San Francesco? San Francesco ha risposto. È vero, Padre Leone, io non sto facendo queste cose e non sono arrivato a questi estremi. Però tu devi chiederti perché non faccio queste cose e non sono arrivato a questi estremi? Perché la Divina Misericordia mi ha colmato della sua grazia e mi ha preservato dal cadere in tanto grandi mali e dal cedere a queste tentazioni. Ma se questo non ci fosse stato, io avrei fatto queste cose che tu dici e anche di peggio. E ti dico anche un'altra cosa, caro frate Leone, che io sono convinto che chi vogliamo prendere un pedofilo, che oggi sembra, no sembra, è una delle cose più orribili e schifose che si possano concepire, allora, punto primo, lo sarei stato anch'io, questo diceva San Francesco, se la grazia di Dio non mi avesse preservato. Punto secondo, dico che il più becero dei pedofili della terra, se Dio gli avesse fatto le stesse grazie che ha fatto a me, ne avrebbe fatto uso molto migliore di quelle che non ho fatto io, sarebbe diventato molto più santo di me. E questo diceva San Francesco. Quindi, allora, i peccati sono peccati, i comportamenti illeciti sono comportamenti illeciti. Su questa materia stiamo tutti quanti tranquilli che la Divina Giustizia farà sentire, come dire, il suo peso a chi ruba o abusa, ancora di più se fa queste cose approfittando delle proprie posizioni pubbliche. Alcuni ultimi aspetti prima di chiudere questo argomento. Allora, abbiamo trattato di questi peccati che sono anche reati, no? Ecco. E introduciamo così il capitolo seguente, dato che abbiamo ancora un pochino di tempo a disposizione. Per concludere, tutti questi peccati, oltre che essere tutti gravemente odiosi, sono gravemente contrari alla legge di Dio. Che in questa materia si trova in sostanziale, come abbiamo visto, sintonia con la legge penale umana. Attenzione, noi figli di Dio dobbiamo imparare a vivere dinanzi a Lui, con una coscienza che sa di dover rispondere al Padre eterno. Nel senso che anche se questa cosa Nel senso che questa cosa che anche qualora sfuggisse, come dire, alle sanzioni alle sanzioni, scusate, sto un attimo leggendo, è arrivata una, devo aprire una piccola parentesi, perché è arrivata in redazione una mail che mi hanno subito girato. Io spero sempre di non equivocare su alcune questioni. Quando prima parlavo di alcune categorie, ecco, ho fatto un esempio, come dire, di reminiscenze della mia vita, della mia parentesi di vita professionale arcaica. Ovviamente io non intendevo assolutamente, ecco, assolutamente mancare di rispetto alla categoria degli avvocati in cui, tra l'altro, per un certo periodo di tempo ho anche militato. Quindi quando ho detto che alcuni, vengono dispregiativamente chiamati con un certo nomignolo, non intendevo certamente fare riferimento a tutti, né ovviamente a tutti coloro che si occupano di questioni assicurative in maniera lecita ed onesta. Io intendevo stigmatizzare un fenomeno, tra l'altro pubblicamente noto, perché vengono poi dati resoconti, insomma, dalle compagnie assicuratrici di tanti numeri, di tante cose che non vanno, e che a volte accade. E per il comportamento chiaramente sportivo, diciamo così, garibaldino, ovviamente di alcuni, non di tutti. Non intendevo assolutamente dire, e quindi se qualcuno avesse inteso così lo smentisco in diretta immediatamente, che questo è cosa che riguarda né tutti gli avvocati, assolutamente, neanche tutti gli avvocati che si occupano onestamente, lecitamente di questa branca del diritto, che è appunto il campo delle assicurazioni. Ecco. Mi dispiace se facendo riferimento ad una, come dire, battuta da corridoio che sentii negli ambienti forensi a suo tempo, dovessi aver involontariamente, ovviamente, come dire, urtato la sensibilità di qualcuno. Ecco, non era assolutamente nella mia intenzione, volevo semplicemente, certamente non colpire la categoria, ma stigmatizzare il comportamento cattivo di chi o va in cerca di queste cose o in qualche modo provoca queste cose con la scusa di fare dei soldi facili senza che ci sia un fondamento legittimo. Quindi, allora, anche qui, come dicevo prima, lo Stato esagera nell'imporci le tasse? Sì, ma se tutti quanti noi sprechiamo continuamente beni pubblici e sfasciamo tutti i banchi delle scuole, da dove vengono i soldi? Allora, le compagnie assicuratrici esagerano nell'imporre i premi, sì, ma se vengono tartassate troppo spesso con qualche comportamento ai limiti, cioè che un sinistro anziché pagarlo 500 lo devono pagare 5.000, scusate, cioè, capite che si mettono in moto dei meccanismi, dei circoli che dopo fanno veramente scoppiare il sistema e come sempre accade in queste questioni paga il giusto per il peccatore. Ecco, quindi questo era, come dire, l'intenzione con cui ma mi dispiace, insomma, se utilizzando un'espressione proprio non del tutto consona, affrontato questo tipo di argomento. Chiudendo la parentesi, ecco, quindi quando noi la facciamo franca dinanzi alla giustizia penale umana, cosa che è possibile, d'accordo? Perché per quanto possano essere rigidi e attenti i controlli, è evidentemente impossibile governare tutte le fattispecie che possono aversi in questa materia. Però dobbiamo stare attenti perché con la giustizia divina non si può. Ecco, ripeto che la penitenza per questi tipi di peccati è la restituzione di tutto quello che si è indebitamente percepito fino all'ultimo centesimo. Quindi, se veramente tornando all'esempio, se tu hai frodato un'assicurazione che hai preso per un sinistro da 300 euro, ne hai presi 1.300, trova il sistema, fai poco alla volta, ma tu c'hai 1.000 euro davanti al Padre Eterno che hai avuto e che non li dovevi avere e che vanno restituiti. E che se non si possono restituire al povero disgraziato che è passato sotto la tua disonestà, vanno date ai poveri o in opere buone. Punto. Questo si sta nel catechismo della Chiesa Cattolica. È una raccomandazione, permettetemi che la ripeto, cioè ricordiamo sempre il monito di nostro Signore Gesù Cristo, che diceva: chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Molte volte, ecco, noi siamo semplicemente, come per certi aspetti, più fortunati di non stare sotto i riflettori, ecco, per tante questioni. Però, povero disgraziato che sta sotto un riflettore, vi ripeto, fermo restando che quello che ha fatto è grave, gravissimo, e ne dovrà pagare le conseguenze e se lo acchiappano anche restituire quello che si è rubato alla pubblica con le collettività. Fermo restando questo, però evitare di assumere atteggiamenti troppo sprezzanti e troppo, come dire, perentori. Sempre citando Gloria Polo, Un'altra cosa, a me è molto colpito questa esperienza, perché proprio l'anno scorso, proprio di questi tempi, l'ho avuta ospite qui, ha parlato in pubblico, e il nostro signore gli ha detto, dice, scusa un attimo, quando hai visto quella notizia al telegiornale di quel disgraziato che si era rubato tutti quei soldi, perché anziché dire, ah, disgraziato, alla forca, in galera, non hai pregato un'Ave Maria per la conversione di quel poveraccio? Ci abbiamo mai pensato a questo? Quello lì è un'anima, d'accordo? È un delinquente, forse, ma è comunque un'anima creata da Dio. Se non si converte, se non si pente, è rovinato. D'accordo? E non abbiamo paura, perché anche in caso di conversione e di pentimento, il Signore comunque, ci sta la penitenza dopo la confessione, la giustizia sarà comunque sempre riparata, però almeno l'anima sarà salvata. Ecco. Noi dobbiamo sempre avere questa consapevolezza che non siamo l'Immacolata Concezione, non lo siamo. E se il Signore, per sua misericordia, per questo è stato San Francesco, ci ha preservato da tante cose brutte, guai a noi se ce ne attribuiamo il merito, e guai a noi se per questo ci sentiamo, ah, io questo non l'ho mai fatto, quindi quello è un delinquente in galera. Vi chiedo e vi esorto umilmente a stare lontano da questi atteggiamenti. Le pietre si possono scagliare solo quando si è innocenti da peccato e nessuno di noi lo è. Meno che mai lo si è, per questo che ho fatto alcuni esempi, chiedendo nuovamente perdono se ho urtato la sensibilità di qualcuno, meno che mai si esenti quando, pur non avendo commesso tanto grandi peccati, ed essendo comunque per tutti i peccatori, abbiamo commesso qualche piccolo peccato, magari, però della stessa specie di quello contro cui puntiamo il dito. Ecco, in quest'ultimo caso, carissimi ragazzi e ragazze, non possiamo permetterci, ecco, di essere troppo crudeli o di infierire in maniera troppo cattiva contro chi ha comunque sbagliato, ecco, e ne risponderà davanti alla Divina Giustizia. Ma per la cui anima, essendo per noi sempre, lo diremo ancora fino ai 10 comandamenti, suprema legge la carità, dobbiamo semplicemente pregare perché abbia una possibilità di riconoscere i suoi errori e di cambiare vita. Vi do a tutti la mia sacerdotale benedizione con l'appuntamento alla settimana prossima. Ave Maria.